decidi tu, cominci a vedere scattoso. Quindi conviene dedicare a un servizio, basta. Devi fare il conto anche economico, perché la cosa migliore sarebbe fare un collegamento dedicato punto a punto per accesso. E una domanda. Cambiare, anzi, mettere un sistema multifrequenza dedicato a ogni cosa? Allora, la domanda è quindi... Sì, sì. All'inizio, dopo comunque le slide sono liberamente scaricabili, stiamo parlando di una tecnologia che è quella Hyper RAN, che funziona sulle frequenze libere intorno ai 5 GHz ed è un range abbastanza stretto. Stiamo parlando, frequenze libere sono 11 su cui puoi giocartela. Quindi tutti gli apparati, questi cui stiamo parlando, lavorano su queste 11 frequenze. Automaticamente tu puoi settarli, per cui se una frequenza è particolarmente disturbata, possono automaticamente partire con una scansione e trovare la frequenza meno disturbata. Se noi siamo in 11 persone che parliamo, va tutto bene, in qualche modo dopo un po' di tempo riusciamo a trovare ognuno una propria sequenza. Il dodicesimo che arriva, cosa fa? Urla più forte? O aspetta? O disturba? Perché già non so chi gli ha fatto il suo lavoro. Perché? Sono frequenze libere, io posso mettermi nella frequenza che voglio. Tu gli rispondi. Sì, io gli rispondo. In realtà tra persone civili ci si siede intorno a un tavolo e si decide quali sono le frequenze che ognuno utilizza. Tra persone meno civili si spara più possibile, esatto, e lì la polizia postale è tenuta a intervenire, perché uscendo fuori dalla potenza regolamentata per legge si è denunciabili, per capirci. Tra persone ancora meno civili ci si fa i dispetti, però insomma questo è il caso proprio peggiore, non l'ho mai visto. Si lavora tutti quanti, insomma, alla fine. Sono stato abbastanza schiacciato. Ormai alla fine. Beh, anche in mezzo, perché non è una lezione, siamo qui a fare un po' di scambio di esperienze. Sì, tanto per dire, parlavo prima dell'hardware. Io qui ho riportato un po' di marche che ci sono sul commercio, che si trovano anche qua in Italia. Perché? Perché ho pensato che se qualcuno vuole sperimentare, vuole provare, almeno ha un punto di partenza da vedere un po' le quotazioni, come funzionano, un po' di datasheet, quello che vogliono. Ce n'è un'altra, però non mi ricordo più come si chiama, che ha due antenne qua a Padova, non so molte linee. E un'altra che arriva fino alla tangenziale Padova Ovest, che però parte da licenza, però non mi ricordo neanche. Questa mi sono informata perché dove abito io non c'è la DSL che arriva. Sì. E questa potrebbe essere una soluzione. Potrebbe? La telesystem forse. Guarda, la memoria mia. Una cosa. Non confondiamo i provider con le marche dell'hardware. No, sto parlando. Perché ho visto tanti provider che marchiavano le loro antenne dicendo sì, lo facciamo noi. Sì e no, che assemblavano i pezzi. No, era un provare un po' più... La nera fa solo antenne, no? Non domandarmi. Io ho preso i nomi con cui mi sono imbattuto e che ho un po' testato, visto come funzionano. Dopo, va bene. Tanto per dirvi, da farvi un po' di infarinatura, Alvarion è il leader del mercato ed è quello che fa i prezzi più alti. Però è anche la qualità più alta. Quindi cosa intendi per più alti al consumatore o al business, a voi? Stiamo parlando business to business, non business to consumer. Okay. Business to business è azienda to azienda, sì, per capirci, scusate se parlo di tanto di e al consumatore in realtà i costi degli apparati non vengono fatti pagare, ma generalmente si fa ammortizzare nel grano del costo. Giusto perché si sappia, ecco. I 100 euro dell'installazione che sentite in giro non coprono minimamente il costo dell'apparato su queste tecnologie wireless. E questo è uno dei problemi per cui i provider si trovano un po' in difficoltà su questa tecnologia. E sì, va bene, Alvarion è quello più costoso, poi c'è Osbridge che è un po' più economico e ha buone performance, Hyperlink Sice di Lucca, quindi anche italiana tra l'altro. Questi li ho sperimentati, funzionano. Alcuni di questi all'interno hanno addirittura servizi di firewall integrato, routing, monitoraggio del traffico, filtro peer-to-peer, perché dopo alla fine sono piccoli computer che vengono più né meno. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti da sbizzarrirsi. Magica. Ah sì, facendo un po' di mente locale su quello che dicevamo prima, 21 connessioni non possiamo farle perché hanno deciso di tagliarci i fondi. Ne facciamo una per sede. Abbiamo una gru in mezzo, per cui facciamo finta che quella lì non possiamo farla. Le sedi restano collegate con questa ipotesi di collegamento. Se fate caso, alcune sedi sono nella situazione per cui se cade il ponte radio, signori, si va a casa, si chiude la barca e saluti, insomma. Internet non va, posta non va. Forse con un ISDN. Perché ho messo la gru e perché vi ho fatto una testa così prima su tutti i casi, foglie, alberi, così? Perché succede veramente di tutto di più. E ci sono due leggi di Murphy che regolano questo lavoro. Intanto le cose sui tetti non sono mai come appaiono a terra. E vorrei far notare la foto a destra. Non so se si vede bene. Questo è un impianto di diffusione. Qui sotto c'è il cliente. In mezzo c'è un bellissimo albero. Questa cosa non era visibile da terra, perché nelle condizioni in cui era non era visibile. Quando sono saliti sul tetto e hanno montato l'antenna, magicamente non funzionava più niente. Hanno dovuto spostare l'antenna sull'edificio a destra per trovare un minimo di visibilità, però capite che significa perdere invece di 2 ore di intervento un'intera giornata, tanto per darmi un'idea. Ah sì, dopo quella lì alla sinistra invece è la manutenzione su uno degli impianti sul monte, impianti di diffusione, perché se si guasta d'inverno e ci sono 150 utenti fermi, non è che puoi dire aspetto il disgelo. Conosco chi è gente che lo fa. Con la fibra ottica questo non succede, a meno che non tirino su tutto. Ma neanche con le racchette da neve succede? Sì. L'equipaggiamento di un gran essere posto. Lo sai, guarda te. Ah sì, vabbè, non parliamo dell'aspetto estetico delle antenne, perché veramente per lavoro una persona cosa fa? In macchina ogni tanto guarda sui tetti, vedi quali sono i nuovi fruitori di tecnologia, vedi quali nuovi punti di accesso hanno messo. Ogni tanto si vedono quegli obrobi sulla destra, no? queste file di antenne orripilanti sono veramente brutte, ragazzi. Anche perché di notte, non so se avete notato, di sotto ci sono delle lucine verdi, quindi di notte vedrete dei più simpatici alberi di Natale con delle lucine verdi o rosse che si accendono, tanto per dare una nota di colore anche. E va bene, dopo i vicini che non apprezzano i vostri impianti radio sono lì. Io vedo ogni tanto dei distrugi cilindri sui tetti delle case, eccetera. Sono i cilindri sono un rivestimento di tutta quella roba lì o sono un qualcosa di diverso? Dipende come sono fatti i cilindri. Allora, siccome il relatore stasera è un po' imbranato, avevo portato un esempio di un'antenna omnidirezionale con tanto di cilindro per farvi vedere un attimo com'era fatta. Peccato che la macchina l'ho lasciata a 200 metri in là e sono dimenticato di portarla. Al massimo potrei dare chiave a qualcuno se vuole. O se no a fine lezione faccio un salto fuori e vado a recuperarla. Anche perché è interessante perché è stata colpita da un fulmine. E vi faccio vedere un attimo cosa è rimasto di quella povera antenna. 10.000 euro buttati via. L'instradamento dei pacchetti. Perché è vero che abbiamo costruito le strade, è vero che abbiamo deciso dove far passare le strade, è vero che bisogna mettere la segnaletica alla fine. E allora l'ipotesi che facciamo, comunque che ho pensato, è prendiamo un ipotetico signor Rossi che è nella filiale più sfigata in fondo, palestra. Ipotizziamo che la nostra connessione a internet sia tramite fibra ottica dal CED e che sia in basso a sinistra. Che strada deve fare il pacchetto? Allora, dalla filiale dove è il signor Rossi fino alla prima filiale sulla sinistra, nessun problema, la strada è semplice, tutta dritta, benissimo. Ma da lì ad arrivare alla fibra ottica, in diagonale, o no? Quanti salti, e perché, e su che base lo scelgo? E se la linea 2 è disturbata, o se la linea 1 è andata giù, chi è che decide queste cose? perché quando si costruisce una rete, anche wireless, il nostro caro amministratore di rete ha anche questo problema. Non è così scontato. E adesso qui arriva la parte peggiore. Allora, cosa succede? Succede che facciamo proprio l'esempio più banale che mi è venuto in mente. Ogni filiale fondamentalmente ha una propria rete, come se ognuno a casa nostra avesse la sua rete 5268, quello che è. Ogni filiale ha un router, che è quello che abbiamo detto prima, che fa livello 1, livello 2, livello 3, all'inizio ancora della presentazione. Quando il signor Rossi cerca di andare su Facebook, tanto per fare un esempio moderno, e che è in tutti gli uffici praticamente, cosa succede? Succede che il nostro PC va sulla rete interna, va dal router e fondamentalmente dice al router: ragazzi, io devo andare su Facebook, che strada devo fare? Dove devo andare? L'ho riassunto praticamente sul disegno in basso. Computer in alto, fa la comunicazione e dice: devo andare su Facebook. Il router, in qualche strano modo, con qualche alchimia, gli dice: dammi il pacchetto, lo consegno io, questa è la strada giusta. E adesso vi spiego anche qual è questa alchimia. Il router è quello azzurro, con le freccette? Questo, okay. Sì, è il simbolo che individua il router. Ma questi che metadone. È blu come un'altra pasticca, però non è uguale. Allora, come fa a sapere il nostro router come raggiungere l'uscita? Voi come fareste? La cosa più semplice, quando uno deve chiedere una strada perché non sa la destinazione, è che comincia a chiedere alle prime persone che trova in giro: mi scusi, devo andare in piazza Mazzini, che strada devo prendere? Il router fa esattamente la stessa cosa. Ogni filiale, abbiamo detto che ha un router, ogni router interroga gli altri router. I router hanno una tabella interna che memorizzano, e questa tabella gli dice all'interno che cosa ha collegato lui. Ho 10 PC con questi indirizzi di IP, il router ha la sua bella tabellina che dice cosa ci ha attaccato. E così per ogni router. Cosa significa quando i router si scambiano le informazioni? Che fondamentalmente ogni router sa che se deve far arrivare un pacchetto verso internet, deve consegnarlo al prossimo router e via così. In realtà, adesso facciamo un esempio un po' più chiaro. Sì, c'è anche l'animazione, se qualcuno vuole studiarsela dopo è meraviglioso perché è chiarissima. Questo è quello che succede fondamentalmente. Filiale A, filiale B. Buongiorno, sono il router A. Chi è collegato? Buongiorno, sono il router B. Sto leggendo in ordine cronologico. Questa è la mia tabella delle informazioni, quello che io so, gli altri router che sono collegati a me e che cosa fanno. Ah, bene. Il router A acquisisce le informazioni del router B, quindi lui, il router A, adesso sa che magicamente per spedire un pacchetto verso Facebook lui il pacchetto deve darlo al router B. Cosa fa il router A? Ricambia gentilmente le informazioni. Lui dice: caro router B, queste sono le informazioni che io ti do, che io conosco. In questo modo il router B, le informazioni che gli arrivano da Facebook, se deve consegnarle al signor Rossi, sa che deve passare per il router A. Fine della trasmissione, amici come prima, tutto chiaro. Questo è un esempio del BGP, border gateway. Puoi scegliere tra BGP, RIP e IGRP, adesso lo vediamo, è la prossima slide. Sono tutti meno la stessa roba. Sì, qual è la potenzialità di questa cosa? Non è soltanto definire dove diavolo devo mandare il mio pacchetto, ma dopo vedremo che c'è un miglioramento di questa cosa che gli permette anche di dire: va bene, io so che devo passare per il router B, ma se io ho un router C, mi conviene mandarlo al router B o al router C? E qui noi stiamo parlando dei processi di routing o instradamento dei pacchetti. E anche qui ci sarebbe una lezione.